sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Le tante caratteristiche peculiari del nostro territorio, del nostro humus esistenziale, del luogo in cui viviamo, del nostro immaginario, del nostro ricordo individuale, c'è la presenza del meridione d'Italia, questione, ahimè, sulla quale occorre avere grande attenzione e grande rispetto quando si parla, perché si potrebbero immediatamente sollevare e infastidire sensibilità molto particolari. Ma visto che ormai è diventata una nostra consuetudine osservare il nostro paese semplicemente attraverso l'occhio dei registi, dei produttori, degli interpreti, di un certo filone di cinema, di un cinema a volte chiamato di genere, cioè del cinema che viene guardato sempre con un certo senso di pudibondo distacco dalla critica ufficiale, dagli osservatori, dagli opinionisti, da coloro che pensano di poter determinare il medio livello di gusto estetico, o a volte anche cinema sublime, cinema del passato, cinema che ha molto parlato e raccontato il nostro paese, che oggi non è più capace di raccontarlo. Beh, questa mattina ci incammineremo nell'ardita operazione di osservare il meridione come valore, come disvalore, come luogo comune, come ricettacolo di complessità, come scaturigine di sensi comici, di sensi divertenti, di sensi articolati dell'esistenza rispetto a una visione più rettilinea in realtà del nord d'Italia, più incasellabile in poche categorie. Il meridione è stata una grandissima fucina di ispirazione di cinema, e soprattutto nel cinema e nella commedia italiana è stato il luogo in cui si sono prodotti grandi interpreti, grandi attori e grandi lettori del loro territorio. Ma cominciamo con una introduzione generale, visto che ormai è diventato un personaggio affabilmente appartenente alla consuetudine di Melog. Oggi questo cammino nel meridione d'Italia attraverso il cinema lo farò con Giuseppe Sanzon. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Tu stesso ti stai producendo in questo momento in una rilettura di Rodolfo Valentino nel territorio che gli dette le origini esattamente, no? Cosa stai facendo? Sto facendo questo documentario che è dedicato alla memoria, a ciò che è rimasto della memoria di Rodolfo Valentino nel suo paese natale, cioè Castellaneta, questo paesino ionico molto piccolo. Lui è diventato il più grande mito del cinema muto ed è partito da questo paese. Una sproporzione fra due poli che è pari a Betlemme e Cristo, perché è un paese piccolissimo del sud. Dove ancora però, tanto per cominciare a introdurre il tema, vedere quanto si è legato poi radicalmente e realmente al territorio, ogni rilettura del meridione. Tu pensa, in senso talmente opposto rispetto al nostro cammino, cosa è stato il libro e poi il film di Saviano riguardo alla zona del Casertano, alla zona della Campania, in certe aree problematiche. Comunque sia, quanto c'è stato un nesso così, così viscerale, così indissolubile poi fra territorio, anche per una reazione. Molte volte il meridione reagisce di fronte a delle letture, è sempre molto guardingo, sempre molto sospettoso. Tutte le volte si parla di meridione o si rilegge poeticamente, in maniera romanzata, attraverso un film, il meridione, c'è sempre qualcuno che si arrabbia, che dice venite qui sempre a dare la stessa immagine. Tu, parlando a Castellaneta e cercando le tracce di Valentino, hai avuto la stessa impressione? Sembra un cammino talmente fuori dal tempo che se lo ricorda più Rodolfo Valentino, eppure lì ancora è un mito reale. Io sono del sud, quindi non per fare della retorica, quindi il mio sguardo non è esattamente esterno. Io ho provato a calarmi in quel contesto e a vedere quanto il mito venga imitato o quanto rimanga di questo mito. Ovviamente c'è una rielaborazione, perché è talmente lontano, talmente legato al muto, che va per forza rielaborato. C'è chi vuole portarne il cadavere, c'è qualche folle che vuole portarne il cadavere da Hollywood a Castellaneta. Cos'è, una mummia? Esiste ancora il cadavere oppure un mucchietto d'osso? Un mucchietto di polvere. d'oro, ma vogliono riportarlo. Sì, come Nosferatu, c'è cioè uno che ha una pinacoteca che vuole traslare questo e poi fare un grande mausoleo a Castellaneta. Io lo trovo commovente, lo immagino appunto come Dracula sull'Atlantico, sulla sua nave con questa cassa in spalle. Io ho raccolto un po' di queste testimonianze, poi ho raccolto qualcosa con un taglio un po' più profondo, che è legato appunto sempre a quanto resti di questo mito così distante in realtà, che ha incarnato il Latin Lover, il maschio meridionale impomatato, imbrillantinato che però si è un mito completamente appannato ormai nell'immaginario generale, per quanto rappresentato punte sublimi della rappresentazione tarocca e fittizia della nostra mascolinità e virilità in tempi passati, oggi il Valentino se ne ricorda più, ma Castellaneta ancora, per capire il nesso indissolubile fra realtà romanzesca, fra realtà mediata e viscerale senso epico del territorio, ancora esiste Valentino, questo è il paradosso. E abbarbicata a questo c'è l'immobiliare Valentino, Valentin Gomme, il gommista Valentino, cioè lo usa come un brand, come un marchio che ha ancora un allure che potrebbe comunque riversarsi sul marketing e essere efficace, cioè, questo è rimasto sostanzialmente. Allora cominciamo con una lettura implacabile e anche fatale del Sud, legato proprio a questa necessità quasi viscerale di non abbandonare questo amnios materno, questa culla, questo alveo carezzevole che da un certo punto di vista ti limita. Il personaggio, il ragazzo, il giovane meridionale sa che dovrebbe scappare, dovrebbe fuggire, dovrebbe andare da qualche altra parte, perlomeno contaminarsi con realtà diverse rispetto a questa così fortemente lo modella, ma qualcosa in realtà lo tiene legato, incatenato, e secondo me una delle rappresentazioni più felici di questa impossibilità di uscire dal bar, della via, del paese che ci ha visto nascere i nostri nonni, i nostri genitori, vedrà nascere probabilmente i nostri figli, è proprio I Basilischi di Lina Wertmüller. A proposito, cercavo proprio a lei. A me? Avrà notato, che pareggio che l'ho notato. E beh? Beh, signorina, io voglio sperare. Beh, insomma, che non vorrà deludere il mio sogno. Lei è un serio ragazzo, è vero, e mi piace. Però ci deve pensare. La risposta fra 3 giorni. Benissimo. A proposito, lei esce sempre con un'altra ragazza. E chi? Una ragazza. Ah, mia cugina. Ci sarebbero 2 pretendenti. Anfusi e Petrulli. Gliene parlerò. La risposta fra 3 giorni. Questa è la realtà emozionale, relazionale, sentimentale, amorosa, sessuale dei Basilischi, di questi ragazzi inchiodati, imbullonati in questo bar, in questa strada assolata, sperduta, negletta e disperata di un paesino del meridione, quando poi arriverà una meravigliosa bionda con una macchina sportiva che potrà veramente permettere a qualcuno di questi ragazzi, uno in particolare, di monetizzare quello che ha di più prezioso, che è il suo fascino latino, il suo potere amatorio, lui potrebbe montare in quella macchina e fuggire verso un futuro che non avrebbe mai immaginato. Alla fine gli amici dicono: ma perché te ne vai? Ma dove vai? E lui rimarrà lì in quel paese. Sì, la frase di Giustino Fortunato che sottende all'intero film è quella: siamo quelli che la razza, il clima e il luogo ha voluto che fossimo, lo dice Stefano Santaflores, che è il protagonista, che sembra un po' Gaspare Pisciotta, cioè quel cliché del meridionale col capello riccio nero e il baffone, che segue in questa scena che abbiamo sentito, segue la ragazza per corteggiarla all'interno di queste vie tufacee, questo bianco accecante del sud. La segue e c'è questo approccio appunto molto mediato, molto rinviato, c'è questa attesa continua. I Basilischi sono questi decertuloni del sud che rimangono al sole, sono dei vitelloni, però non nel contesto della bohème borghese di Rimini. Sono in questa attesa continua di un domani che sembra sempre costantemente rinviato, in questa inerzia della controra che tutto sopisce in queste lunghe ore di sonno dopo il pranzo luculiano che si consuma quotidianamente. Sì, in quelle situazioni in cui i genitori si mettono il pigiama e vanno a letto dopo pranzo, si rialzano alle 5 di pomeriggio, questa è la situazione reale. I miei sono di Canosa di Puglia, che è un paese, il film I Basilischi è girato in un paese indeterminato, parlano anche questo pastiche indeterminato che non ricreato un po' dalla Vermuller. I miei sono di Canosa di Puglia, che è un paese vicino a dove hanno girato, cioè a Minervino, e mio padre mi racconta che la controra finiva alle 5 del pomeriggio, quando uno metteva il giradischi, metteva Si è spento il sole di Celentano a tutto volume, e in queste vie assolate, silenziose, si diffondeva a tutto volume volume alla voce di... Ma loro si mettono il pigiama e andavano a letto. Sì, ma alcuni si mettevano il pigiama, cioè, ognuno interpretava questo momento di letargo a suo modo, però sicuramente era, non era un riposino, era qualcosa di consistente, non poteva volare una mosca, cioè, i bambini venivano picchiati, si facevano caos in quelle ore post prandiale. Io sono di Centro Italia, però anche noi ci costringevano a fare il riposino al pomeriggio, era un incubo. Anche per pomeriggio me. Il riposino, non so perché dovevo andare a letto. È una delle angosce esistenziali che ricordo e più forte. E oggi darei chissà che potermi fare una dormita dopo pranzo, che non pranzo nemmeno più. 800240024, il tema l'avete capito. Stiamo osservando il meridione, poi facciamo tutti parte di qualche aspetto meridionale. Ecco, io umbro mi ricordo l'obbligo del riposino, anch'io non c'entrava nulla, mai avuto nessun tipo di ascendenza meridionale, ma ci sono degli usi tipicamente mediterranei che sono più evidenti macroscopicamente rappresentati al meridione, ma che in fondo fanno parte della nostra esperienza. Scede, coraggio, siamo a Milano. Ehi, su, Luca, dai, ci siamo finalmente. Vieni, va. Rocco, Ubanaro, e ricordati la valigia, dai. Poi Luca, che tu? L'avete pigliata tutta la roba? Ron, ma vieni un momento. Ma Vincenzo non giango? Non lo sa, cioè, ma... Perché non giango? Forse ci aspetta fuori. Simone, perché Vincenzo non giango? Ma non è lui quello là in fondo? Quale? Io non vedo, guarda un po' tu. Vieni qua. Ma vede che avendo, ma non ti preoccupare. Poi ma, vuoi che vada a vedere se trova Vincenzo? Sì, ma non da allontanare, No. Rocco Suoi Fratelli invece è una realtà più articolata, lì si muovono, lì c'è la transumanza dei meridionali, con una madre terrificante, un Erinni, un gruppo di fratelli vanno verso Milano per trovare lavoro. Poi qualcuno vorrà lavorare, qualcuno farà il pappone, ma come sempre accade in tutte le famiglie, il figlio il prodigo, il peggiore, è quello più amato dalla madre, quindi il più schifoso è quello più amato dalla madre. La famiglia è capeggiata da questa madre che è Katina Paxinou, l'attrice greca, infatti tu hai detto Erinni, infatti ha questo volto da tragedia greca. E questa scena è meravigliosa perché è l'arrivo di questa famiglia di sera nella stazione di Milano, quindi questa tribù arcaica che arriva in un posto di metallo, cemento, vetro, che è la stazione futuristica di Milano, fra le nebbie del Pensa nord. La differenza fra l'arrivo a Milano di Totò Peppino e la mala femmina, che non l'abbiamo mandato perché è troppo scontato. È troppo scontato, ma è nella memoria collettiva di tutti. Però quando arrivano con la pelliccia e vanno dal vigile... Col colbacco, e parlano un improbabile milanese, che è una metafora francese, italiana, non si capisce bene. E pensano di andare in un altro mondo, per loro è un altro mondo proprio. Lì, in maniera surreale, sintetizzano l'estraneità. Qui c'è una sorta di composizione realistica di queste estraneità, arrivano e sono terrorizzati, sono ingoiati da queste nebbie, e ci sarà questa famiglia in cui c'è un po' l'idiota dostoevskiano che Alain Delon, mai così pallido, così docile, poi sarà molto più gelido in tutti gli altri film, e invece Renato Salvatore, Rogojin, la belva, l'orso. C'è una sorta, è un film che verrà molto ripreso da Fassbinder comunque, perché c'è una sorta di omosessualità latente, anche questo virilismo del sud che Visconti coglie molto bene, che proprio mediterraneo, c'è una radice greca profondissima, levantina, turcomanna, esiste questa, è l'ammam che riemerge in ogni volto, i von Gloden che andavano in Sicilia a fotografare ragazzini sui tempi greci, capito? È qualcosa del genere. Esatto, hanno corpi epici, hanno una dinamica molto... sono dei meridionali metafisici quelli che li trae Visconti, però hanno una forza autentica, a parte le parti più moralistiche, però... esprime benissimo l'attrito fra una tribù che arriva in un contesto urbano in evoluzione. Molto bello il loro passaggio, il loro scivolare col tram sulle note da Night di Nino Rota in queste luci fluorescenti della città, delle insegne che loro abituati. Sono quasi un carico di carne, di sangue in una città che è intorpidita, sì, ha il lavoro, una città fatta di femmine gelide, o perlomeno gelide perché non c'hanno uomini accanto. Questa è l'idea che si ha, capito? Sì. Poi l'interpretazione magari è estrema, che le manderanno a battere nella loro lettura estrema, però è così. Sì, poi c'è quel finale, quella scena da Carmen in cui Renato Salvatori uccide la Girardot all'idroscalo, anche quella una potenza, straordinaria. Carmen, buongiorno. Buongiorno. È stata appena evocata da Sanson e io la chiamo. Sì, ho la voce un po' così perché sono raffreddata. Allora, io volevo solo un piccolo particolare di tutto quello che la Sicilia rappresenta per me, sarò breve. Lei è siciliana? Sì, mio padre è di Messina. Io sono nata qua a Cuneo con padre siciliano, parenti siciliani, che ho visto moltissimo negli anni, e madre piemontese. Cuneo è la città in cui Totò fa il militare. Tre anni di militare a Cuneo. Lo sappiamo. E entrambi i miei genitori sono molto colti e molto impegnati, tutto quanto. Quindi ho una famiglia privilegiata. Volevo solo dire un piccolo particolare di quello che la Sicilia rappresenta per me. Quando vado in giro, ospite di amici o parenti conoscenti a Cuneo, per me rappresenta la cultura e la civiltà del vivere quotidiano. Va bene, ma mi dica però attraverso il cinema, che sennò noi non facciamo un discorso astratto sul meridionalismo. Il cinema, senz'altro. Lei dà delle impressioni. Sì, ecco, il Gattopardo, benissimo. Senz'altro il Gattopardo. Perché una Sicilia che nessuno di noi ha mai conosciuto, ce la immaginiamo così perché è una rilettura viscontiana una realtà così, anche. È così. Mio nonno siciliano somigliava vagamente alla figura del Gattopardo. Il Gattopardo rappresenta la civiltà siciliana che se ne sta andando rispetto a un'Italia risorgimentale che sta nascendo, un'Italia completa che sta nascendo, ma che purtroppo, e si vede dal Gattopardo, l'ho letto più volte, ma che purtroppo non porterà mai all'unione di due entità così diverse, il nord e il sud. Lei mi dà sempre più elementi per una trasmissione che ho annunciato più volte, voglio rifarla sui filo borbonici in Italia, mi piacerà molto, la chiameremo anche lei, sarà un elemento importante. Uno vuole ammazzare a Naucio. Vogliamo essere più precisi? Un po'. Il cigano ha chiamato suo padre. No! No, non sei mai Dio! E allora, fiata? Mio fratello Antonio vuole ammazzare Peppino Califano! Ehi, ammazzare dove? Sta nascosto a un convento di San Giuliano a Regalbuto. Antonio è partito 5 minuti fa. Partito? Come? Col treno. Ah, col treno, allora c'è tempo. Ma perché tuo fratello lo vuole ammazzare? Peppino non era fidanzato con la tua sorella più grande. E non è stata lei a lasciarlo. E quindi, semmai, dovrebbe essere lui l'offeso. E allora perché Antonio gli vuole fare la festa, ah? Perché Peppino, uno schifoso vigliacco! Senti, ragazzina, niente, c'è stato qualcosa fra voi due? No! Fisicato, che scrivi? Lei dice no e tu scrivi no? E credi di essere a Treviso? Qui siamo in Sicilia. Ha detto no e forse vuol dire sì. Giuseppe Sansonna, questo commissario che capisce così perfettamente il senso della sua terra e i sottolinguaggi, i linguaggi segreti, le metafore, dice all'appuntato che scrive, che viene da un'altra realtà, dice ma che fa? Dice no una donna e tu scrivi no. Quando dice no potrebbe anche essere sì. Di cosa parliamo adesso? È Sedotta abbandonata di Germi, in cui Germi rivede a modo suo il matrimonio riparatore che all'epoca sanava rapimenti, cioè per sposarsi. La fuitina. Rivede questo fenomeno antropologico che in pieni anni 60 era ancora molto vivo e molto praticato, ma la cosa interessante è appunto questa contrapposizione fa il tenente del nord, appunto, che ricorda un po' quelli di Sciascia del giorno della civetta, che non riesce a penetrare in questo contesto antropologico, ne rimane avulso. Anche carabiniere di Pane, Amore e Fantasia. Sì, sono sempre elementi che rimangono sospesi, sono i testimoni sbigottiti, stupefatti di un mondo che continua ciclicamente a rimanere uguale a se stesso, con sue regole arcaiche che si innestano poi sulla giurisprudenza poi effettiva, reale. Michele, buongiorno. Buongiorno a lei. Chiamo da Aversa, giusto per la cronaca, prima contea normanna del sud Italia, appartengo a un'associazione o borbonica, quindi mi propongo... Sì, noi prendiamo appunto, perché devo fare una trasmissione, l'ho promesso, la farò, visto che siete tanti, sì. Lo farò con grande piacere. Le possiamo dare un po' di riferimento? Sì, no, guardi, in Tonti la chiamerà alla fine questa trasmissione, stiamo facendo un elenco di persone, perché ci interessa. Per i film invece, io abbandonerei un po' questo vostro andazzo un po' melanconico sugli anni 50 e 60 e propongo alla vostra attenzione due o tre riferimenti. Anni 80 mi manda Picone, anni adesso attuali, sotto altri aspetti, Gomorra. E l'ho citato Gomorra. L'ultimo film di Ozepetec, quello con Scamarcio in Puglia, che è molto interessante perché dà vita concreta, diciamo vita reale, una civiltà, la nostra del sud, che comunque, anche se si scandalizza, conosce la sessualità, omosessualità, cose concrete. E poi i film di Virzì, anche se sembra strano, però in quei call center, in cui si viaggia neanche 1.000 euro al mese, ci sono tanti ragazzi che hanno studiato qui e sono venuti a lavorare al nord. Cercando il film di Virzì è ispirato a un romanzo di una ragazza sarda, l'ha vissuta in Sardegna. Bene, che è sud, che è meridione. Dipende dal punto di vista, non so se i sardi sono d'accordo a essere chiamati meridionali. Però purtroppo sono sono stati sempre considerati dai Savoia come carne da macello, sì, la sassa, terra da disboscare soprattutto. Esatto. La Sardegna era piena di alberi, potesse attraversata camminando sugli alberi. I romani attaccarono i sardi con i cani da battaglia, immagini un po', insomma, li facevano la zannaia dei cani. Purtroppo un popolo che ha sempre sofferto. Questo per dire che guardiamo i film attuali, ci danno un sud un po' poliedrico, più facce, quindi non è gli anni 50, 60, tutti quei film che avete citato, insomma, mi viene un po' di malinconia. Io ho 40 anni, ho lavorato a Milano, a Roma, a Bari, a Napoli, conosco, insomma, riesco a leggere quando posso e appartengo a una generazione nuova, anche se ho radici ben salde. Mi chiamo Michele Angelo Raffaele perché ho il mio nome e i nomi dei miei bisnonni, del mio bisnonno, quindi... Quindi è stratificata lontano, su lei la storia della famiglia, giustamente. Certo, certamente, ai miei figli ho messo il nome sia di mio padre, al primogenito, e il nome del mio trisavolo. Quindi sì, mio fra tre generazioni figlio... ci vorrà 10 minuti per dire il nome di una persona. No, al primo figlio ho chiamato Luigi Angelo Raffaele, quindi il nome di mio padre, e seguendolo al nome del trisavolo. Vabbè, noi ci sentiremo per la prossima trasmissione su Borboni. Tenga da parte qualcosa da dire perché sarà fra i nostri ospiti, la stiamo preparando. Melog 2.0. No, non ce la faccio più. Gaeta, chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Cioè, com'è questa cosa? Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Grazie, è bello, so. L'hai fatto tu? Ma pare scemo tu, invece. Stiamo raccontando il Meridione d'Italia come luogo dell'immaginario, raccontando dal cinema italiano. Questo era Ricomincio da tre con Massimo Troisi. Molti ci stanno scrivendo, lo dico a Giuseppe Sansonna che è in studio con me, dicendo che usiamo soltanto film datati, letture vecchie. Questa è anche una tipica cosa meridionale. Sono letture vecchie, ancora mettete quello con la lupara sulla spalla, ancora adesso non è più così. Alessandro mi dice, sto ascoltando la trasmissione, leggo su Facebook, sembra che state usando solo stralci di film un po' vecchiotti. Un'immagine recente sono Le Acrobate di Silvio Soldini, dove le protagoniste camminano a piedi verso casa lungo una strada assolata, la città periferia di Taranto, più straniante, meno di colore. Sì, però i film che stiamo citando sono film che sono entrati nella storia del nostro cinema e non soltanto del nostro cinema. Altri film, tentativi meravigliosi, ti citavo prima i buchi neri di Corsicato, un film meraviglioso in cui la sposa cade il giorno delle nozze vestita di bianco dalle scale e si svergina col tacco della scarpa, che è, trovo, una surreale rappresentazione di tutti i non detti, di tutti i tabù, di tutte le sovrastrutture più trite del Meridione, e le racconta in questo modo. Hai altre aggiunte da fare rispetto a quello che noi abbiamo? Ma noi adesso abbiamo sentito per esempio Troisi che rappresenta un basilisco degli anni Ottanta, questo è il suo primo film da regista, che Ricomincio da tre, e c'è la sua voglia di partire, ma non da emigrante sanguinoso, non da emigrante drammatico come quelli viscontiani, ma e neanche da nababbo che va a fare il viaggio al nord per andare semplicemente a studiare. C'è qualcosa di intermedio fra i due, decide di partire e poi c'è il suo amico Lello Arena che gli cita la frase di Montaigne spacciandola per sua, c'è questa sorta di... col suo fare indolente, Troisi, col suo fare dolcemente pigro, prova a uscire dall'impasse, dalla circolarità del tempo tipica del sud. Io penso che questi siano archetipi interessanti, ancora validi oggi. Cos'è? Pesce spada fritto. Se poi preferisci un pugicino della marinara, c'è anche quello. Ma non tutto, è soltanto un pezzettino. Non mi piace sto giacchettino. Perché? Perché stai smodesta. Si cammela! A Milano così si portano il progresso, l'emancipazione femminile. Oh, ninfa, i femmina la prima dalla scala, tutta la grida sporta. Ma salire a chi? E Ciccio Lacanà? E Micron. E Alfio Galì? In galera sta. E Cufu? Uomo d'onore, non dimenticarlo mai. E chi l'ha dimenticato? Giustamente dopo mangiato vado ad ossequiare Don Vincenzo. Non è che disturba, è che non sono abituato a vedere una femmina che fuma. Ah, allora se non do fastidio, scusa. Ma ognuno ha le sue abitudini. Una sigaretta alla fine dei pasti. Fine del pasto! Ma questa forse è la più odiosa e odiata rappresentazione del Sud vista con l'occhio del meridionale. Alberto Sordi, il mafioso, va al nord e riporta al suo paese la moglie milanese. Sei smodesta, gli dice la vecchia del paese, sei smodesta perché c'ha una giacchettina, fuma tavola, poi dice il pasto è finito, erano soltanto agli albori di quel pasto interminabile che, di cui ognuno che va a ospite di una famiglia o di un'occasione mondana sa esattamente di che si tratta. Io ricordo esattamente un terribile momento in Sicilia, ero andato per lavoro, un grande pasto, non finiva mai. Dopo che ero morto, rodo mucchi di piatti, di tazzine, di cose. Dice adesso la cassata, viene il cameriere e dice è finita. Io felice, dico mi salvo. Poi invece dice è arrivata, c'è soltanto una porzione. Mi ricordo 20 dita che indicavano me. E mi sono dovuto mangiare anche la glassa verde che mi esce dalle orecchie. Ecco, il mafioso cosa succede? Lui a un certo punto però, tornando in Sicilia, viene insignito dell'onore di andare a ammazzare una persona e ci prova a farlo, lo fa. Questo è un film del 60 dell'attuale, c'è un Sordi strepitoso perché lui, romanissimo, trastevedino, incarna, truccato come anche lui, come Gaspare Pichot, riccio nero e baffone nero. Questo siciliano enfatico rispetto al romano indolente, furbesco, lui è il siciliano enfatico pervaso di senso dell'onore, di senso di appartenenza, torna a casa con la moglie milanese che ovviamente è oggetto delle concupiscenze di tutti i vecchi amici ed è guardata con occhi stupiti dall'intera famiglia, dalla madre, dal padre, dalla sorella baffuta di Sordi. Questa idea del pasto, al di là è ovvio che ci sono delle forzature da commedia, però il pasto come momento sociale protratto e dilatato nel tempo con accumulo di cibo è uno dei topoi ancora persistenti al sud, è molto forte. Diciamo nel resto dell'Italia rimane solo per i pranzi di nozze che non finiscono mai, durano fino a tardo pomeriggio, sono ancora dei luoghi in cui che se ne dica si ostenta il potere d'acquisto delle famiglie. Nessuno rinuncia, anche i politicamente corretti, anche gli ideologicamente avanzati, quelli che comunque hanno il giorno che si sposano li vedi come se facessero qualcosa di peccaminoso con la listina delle zie del ristorante, lo fanno con questa idea di far qualcosa controcorrente, ma in realtà stanno e seguono quella che è una tradizione dalle quali non si riescono a staccare. Luciano. Sì, buongiorno. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Senta, io telefono da Firenze, anch'io volevo dire la mia sulla questione meridionale e ho un esempio da portarvi e credo che voi conosciate in generale, è il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Grazie. Ed è una scrittura stupenda, io non sono siciliano, premetto sono fiorentino, quindi ho le mie radici, però ho vissuto per un periodo di tempo, ho amici giù e l'aneddoto che io volevo ricordare di Sciascia, che è diciamo emblematico di come si rappresenta l'uomo del sud, è l'omicidio che avviene su un pullman. Viene ucciso un uomo su un pullman mentre il pullman stava per partire in una piazza, si parla di piazza Almerina, so qualcuno di voi lo conoscerà, il luogo di Palermo, e quindi viene fatta l'inchiesta, il capitano dei carabinieri chiama l'autista a rispondere se lui avesse visto qualcosa, se avesse visto chi aveva sparato, e l'autista dice: capitano, io sono pagato per guardare avanti, non per guardare dietro. Questa è la cultura meridionale. Sì, questa è la cultura meridionale, mi sembra un'asserzione un po' forte, cioè questi sono dei, come al solito uno racconta degli spaccati, dei frammenti, cioè, può essere sicuramente la cultura omertosa fa parte di certe situazioni persistenti tuttora indubbiamente, però questa è la cultura meridionale, mi sembra un po' forte come affermazione. Anche forte, scusi, un po' troppo sì. Definitiva, cioè non è ma l'intera cultura. Mi lasci finire, scusi. Sì, ma alzi la voce, guardi, perché se mi girano le palle a me la seguo subito. Sia calmo, via, forza. Ma io sto calmo, ma se non mi fa concludere io. Sì, la faccio concludere, l'ho dato il tempo abbastanza, concluda la svelta. No, volevo dire, chiunque dal sud viene al nord si adegua al nord, ma quando ritorna al sud è uguale a prima. E allora? Perché fa parte di quella terra, niente di più, fa bene. E niente di meno. Sono d'accordo che faccia così. Perché siete tanto scaldati? Poi fa scaldare a me, è difficilissimo. L'arroganza, non tollero l'arroganza delle persone. Io cerco di essere padrone delle mie idee, del mio pensiero, ma non di essere arrogante. Devo dire una banalità assoluta, questo signore l'ha infiorettata come chissà quale dichiarazione dovesse fare. Federico. Buongiorno Nicoletti, grazie, sì. Mi fa piacere parlare nella sua trasmissione perché l'ammiro molto. ci ho detto io. Guarda, non è che la seguo se non dice questo, adesso no, lo so, mi sono lasciato andare un attimo. No, vabbè, grazie. Io volevo citare un qualcosina di un pochino più basso. Dicevo che citavo il film Viene avanti cretino con Lino Banfi, dove Lino Banfi a Roma vede un suo compaesano che gli ricorda che lui è il fratello, l'amico di, e lui che non lo riconosce, quando questo se ne va via dice: Terrone maledetto, ma chi lo conosce a quello? In dialetto barese. E io avevo uno zio barese che abitava, uno zio sposato con mia zia di Torino, che lui barese di nascita e di origine è emigrato a Torino, lui considerava terroni tutti quelli che venivano dal sud Italia, perché lui si considerava ormai non più terrone, perché lui viveva a Torino ed era torinese. Esiste tutta una rappresentazione, dalla Litizzetto e poi a Batantuono, il Teruncello, che cercava di parlare naturalmente una sorta di dialetto settentrionale, non riuscendoci. Questo che l'ascoltatore ha introdotto è interessante come argomento, è sul linguaggio. Allora, Banfi ha reinventato attraverso la Man Spettacolo un linguaggio pugliese che non esiste. Io sono di Bari, a Bari si dice Iso de Bar, per dire io sono di, invece Banfi lo spaccia per quello, però è comunque una reinvenzione ovviamente spettacolare, funziona. In quel caso invece ritrova il vecchio compaesano e cominciano a parlare il vero dialetto canosino, di Canosa di Puglia, stretto, e sotto compaiono i titoli come Al Jazeera, i sottotitoli in arabo, no? Quindi c'è questa sorta di alterità rispetto del vero dialetto, perché è talmente distante dall'italiano il dialetto pugliese stretto, che effettivamente è anche improponibile su un mercato cinematografico nazionale, va traslato, va assimilato, come quello che abbiamo sentito prima nei Basilischi da Vermüller. È un pugliese convenzionale, inventato, perché possa essere comprensibile. Oh, che fai, la modella? Ci andiamo a divertire? Non credo. Non si fa la cena, prezioso. Mo, esci, un panino? Con la carattere. Ciao. Oh, bella. Così ti piace di più? Oh, Ugio, la vuoi per ne? La vuoi per ne, sono? Cioè, come ce l'hai? Riesci a tradurre in simultanea, Sansonna, cosa stanno dicendo? Questo è un dialogo, è una tensione che si sviluppa fra Dino a Brescia e un avventore in uno dei luoghi tipici della baresità, ovvero, si può dire forse una parolaccia, si può dire, cioè, il classico pane e merda, ovvero un chioschetto col gruppo elettrogeno che sta sul lungomare di Bari, che vende degli orridi e letali panini. C'è Dino a Brescia, completamente strafatto di cocaina, che arriva ballando, insomma, l'house, ha vinto dalla music house, arriva e vede queste due belle ragazze e quindi comincia a corteggiarle, che però sono una è la fidanzata di questo sconosciuto avventore. Quindi si sviluppa il classico scontro fra caproni, cioè per il possesso della donna, no? Cioè lui tenta questo approccio ed è strepitoso, perché appunto questo è il film, è la capagira che, proprio sul discorso del linguaggio, ci riallacciamo al discorso di prima, propone un linguaggio barese autentico, reale, un film del 99 che propone, è passato di tutta Italia con i sottotitoli, ma propone un barese vero, sentito com'è. È interessante anche l'uso che si fa della lingua, della particolare della lingua, una lingua elaborata, inventata, un calambur di Lino Banfi, una lingua autentica però sottotitolata, che aumenta e drammatizza ancora di più l'alterità di quella lingua. Melog 2.0. Insomma, fatemi capire esattamente che cosa vorrebbe. Un vecchio? No. No. E come no? È già gravida. Ah. Ora lo sai. Tu sei un uomo intelligente, metallurgico, comunista. Le tue coppe ce l'hai anche tu, quindi non ti mettere a fare compare Turiggio. È arrivato il momento di sistemare le cose. Vi accomodate, divorzio, non divorzio, senza tragedia, con stima reciproca. Puoi dare l'esempio di come ci si comporta in certe case, da uomini civili, senza tanta stupidaggine. Quando nasco la guida meschina, un tale si innamorò, lei resistette, tu tenevi l'esaurimento, lui insistette e lei cadde meschina. Fu solo per una volta, ma purtroppo... Botta! Comunista, 800 24 00 24 Giuseppe Sansonna. metallurgico ferito nell'onore dimostra che non esiste rieducazione possibile, non esiste possibilità di viraggio attraverso l'ideologia di quello che è l'istinto profondo e radicale, ancestrale. Mimì metallurgico ferito nell'onore dimentica tutto, il pensiero, l'ideologia, la considerazione della donna, e non può che reagire nella maniera in cui la sua carne è abituata a reagire. Sotto la cupola confortante della sua struttura ideologica comunista palpita l'arcaismo feroce del baffuto Giannini, del visceralissimo, come la Vermiule lo ha reinventato come personaggio di grande visceralità meridionale, lui spezzino tra l'altro, questo è molto curioso, uno di La Spezia che riesce a incarnare perfettamente questa serie di figure di grandi meridionali. Anche Carunchio lo fa benissimo. Sì, è perfetto. E quindi ritorna alla concezione del delitto d'onore come espiazione possibile, l'unica è possibile, solo con il sangue si può lavare l'onore. Stefano, buongiorno. Buongiorno, io volevo citare un film ed un episodio che secondo me è emblematico per diciamo così evidenziare la romanità dei tempi che furono, che è esattamente identica a quelle di oggi. Il film è un film poco noto ma godibilissimo, Scipione detto anche l'Africano, con di Luigi Magni, protagonista Marcello Mastroianni, e l'episodio che volevo citare è quello dei due fratelli Mastroianni, perché nel film la parte di Scipione l'Asiatico la fa realmente il fratello di Marcello Mastroianni. Allora, i due fratelli, Scipione l'Africano, che vede che il fratello, appunto l'Asiatico, sta mangiando i fagioli insieme agli schiavi, e si rivolge al fratello dicendogli: ma come, stai mangiando con gli schiavi? E l'altro gli risponde: ma so col sellero. Cioè, secondo me è sintomatico dei romani, quindi mi piaceva evidenziare questo col sellero è il condimento di quello che sta mangiando, cioè c'è il sedano dentro, questo vuol dire, no? Esatto, voleva dire, sono talmente buoni, so col sellero, che li posso mangiare anche con gli schiavi, non fa niente. Sansona, ricordi il film? Sì, infatti c'è Ruggero Mastroianni che fa la parte del fratello, che è un montatore occasionalmente prestato al mondo della attorialità. E quindi c'è questa, sì, effettivamente rispetto a quello che citavamo prima, al mafioso, a Sordi, che deve cambiare la sua romanità per diventare siciliano, perché il romano si accontenta, accomoda tutto, invece il siciliano visto dall'attuada, incarnato da Sordi, in nome dell'onore porterà a termine questo. Non dimentichiamo che Mastroianni fu un fantastico e forse unico interprete del Bell'Antonio, sì, che anche lì è un dramma fortissimo. Il siciliano, esempio di virilità, coccolato dalla madre, le donne, in realtà è impotente, è un'onta irraggiungibile dall'idea, dal pensiero, dalla concezione, tanto che il padre si suiciderà in un casino pur di riscattare l'onore di questo figlio. E lì Mastroianni è perfetto, anche perché parla poco. Sì. Anche Divorzio all'italiana fa benissimo il meridionale. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a lei. Io come film voglio segnalarle La donna con la pistola. Questa donna che va all'estero, in Inghilterra, per ritrovare il suo onore, per vendicare il suo onore violato, e invece trova una nuova vita e capisce quanto c'è di sbagliato nella vita che faceva prima. Parlare del Sud è un tema, con tutto il rispetto per la sua trasmissione, che ci vorrebbero giornate intere. Però ecco, noi usiamo quelle poche che abbiamo a disposizione. E lo fa bene, per la verità. Voglio andare un attimo indietro a quell'ascoltatore fiorentino che parlava del film Giorno della Civetta. Se io chiedo scusa agli ascoltatori, mi sono lasciato andare con un'espressione che non è consona in bocca a un conduttore, non si dice non mi faccia girare le palle, chiedo scusa, me la rimangio, chiedo scusa anche al signore. Non però si preoccupi. Odio l'arroganza, io sono una persona tranquilla, sono riuscito, ci ho messo 50 anni a dominare la mia aggressività, e vorrei che anche gli altri lo facessero. Ascolto. No, per l'amor di Dio, non avevo alcuna vena polemica. No, non ce l'ho con lei, no, stia tranquillo. Chiedevo ammenda e venia per quello che avevo fatto prima io. Lei non c'entra, tranquillo. E quindi, dicevo, l'autista, io sono pagato per guardare avanti. Ma questo, vede, noi del Sud, io sono di Reggio Calabria, chiamo da Pisa, non vorremmo essere così. Siamo costretti a essere così. E lei mi chiede perché. Perché quando l'autista dice sì, è stato quello ad uccidere quella persona, indica l'assassino, poi quello è un uomo perso. la sua famiglia è persa, i suoi parenti fino alla terza generazione sono tutti, persi. Tutti, guardi. Ma guardi, parliamo in un paese in cui se un pirata della strada travolge una persona per strada, qualunque latitudine avvenga, è sempre impossibile trovare un testimone, difficilissimo. Quindi il senso omertoso è spalmato in maniera, non dico equa, ma sufficientemente presente in tutto il paese. Non starei, io non voglio fare il difensore della meridionalità, naturalmente. Lo si ascrive un pochino di più al sud e ha ragione, molto probabilmente. Sicuramente, nessuno nega esista una realtà problematica in cui certe circostanze sono accentuate, ma nessuno di noi è totalmente esento e innocente da questo punto di vista. Mi permetta di spezzare un attimino una lancia. Sì, l'ultima, perché manca un secondo. Sì, un secondo, a favore del sud. Il sud, il regno delle due Sicilie, era uno dei primi d'Europa. Perfetto, allora ha soldato anche lei, arruolato nella trasmissione che stiamo preparando sui filo borbonici, ci sarà anche lei. Grazie a Giuseppe Sansonna, grazie a Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.